terzo anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Traduzione di Paola Capriolo. C'eravamo appena sistemati, le signorine si erano appena salutate e avevano espresso le loro osservazioni sui vestiti e principalmente sui cappelli e sparlato a dovere della compagnia che ci attendeva, quando Lotte ordinò di fermare la carrozza e fece scendere i fratelli, i quali vollero baciarle ancora una volta la mano. Un gesto compiuto dal maggiore con tutta la tenerezza dei suoi 15 anni, dall'altro con grande impeto e spensieratezza. Lei le incaricò di salutare ancora una volta i piccoli e ripartimmo. La cugina le domandò se avesse finito il libro che le aveva mandato di recente. No, rispose Lotte, non mi piace. Se vuole può riaverlo. E il precedente non era migliore. Fui stupito quando domandai di quale specie di libri si trattasse e lei mi rispose: ci vediamo costretti a sopprimere questo passo della lettera per non dare a nessuno motivo di lagnarsi, anche se in fondo a nessun autore importerà molto del giudizio di una fanciulla solitaria e di un giovane uomo irrequieto. Trovavo molto carattere in tutto ciò che diceva. A ogni parola scorgevo nuove attrattive, nuovi raggi dello spirito emanare dai suoi lineamenti illuminati da una soddisfazione sempre più intensa, poiché ella sentiva che io la comprendevo. Quando ero più giovane, disse, non amavo nulla quanto i romanzi. Sai il cielo come mi piacesse la domenica sedermi in un cantuccio e poter prendere parte con tutto il cuore alla buona o cattiva sorte di una qualche Miss Jenny. E non nego neppure di provare ancora una certa attrazione per quel genere. Ma poiché ormai riesco così di rado a leggere un libro, voglio che sia in tutto e per tutto di mio gusto. E l'autore preferito è quello nel quale ritrovo il mio mondo, nelle cui opere accadono le stesse cose che vedo succedere intorno a me e le cui storie mi risultano tanto amabili e interessanti quanto la mia stessa vita domestica, che non sarà il paradiso, ma nel complesso è una fonte di inesprimibile beatitudine. Mi sforzai di nascondere la commozione suscitata in me da queste parole, ma non vi riuscii a lungo. Quando infatti la udii parlare con tanta verità, sia pure di sfuggita, del vicario di Wakefield, di... anche qui abbiamo omesso i nomi di alcuni autori nostri connazionali. Chi gode del plauso di Lotte lo sentirà certamente nel proprio cuore se leggerà questo passo, e gli altri non hanno nessun bisogno di saperlo. Non seppi più dominarmi. Le dissi quanto avevo in cuore, e solo dopo qualche minuto, quando Lotte si rivolse alle altre, mi accorsi che queste erano rimaste per tutto il tempo con gli occhi sgranati, come se non fossero state lì. La cugina mi guardò più di una volta con aria di scherno, ma non me ne importava nulla. Il discorso cadde sul piacere della danza. Se questa passione è un peccato, disse Lotte, ve lo confesso di buon grado, non conosco nulla che mi rallegri come danzare, e se ho brutti pensieri per la testa, mi basta strimpellare una contraddanza sul mio pianoforte scordato e tutto torna a posto. Come durante la conversazione io mi beassi della vista di quegli occhi neri, come quelle labbra vivaci e quelle guance fresche e colorite attraessero la mia anima, come interamente assorto nel nobile senso del suo ragionare, spesso non udissi neppure le parole in cui esso si esprimeva. Di tutto ciò puoi ben farti un'idea, perché mi conosci. In breve, quando ci fermammo davanti al padiglione, scesi dalla carrozza come uno che stia sognando, ed ero così immerso nei miei sogni, mentre intorno a me il mondo tramontava, da non accorgermi quasi della musica che risonava laggiù, venendoci incontro dalla sala illuminata. I due signori, Audran e un certo NN, chi mai riesce a rammentare tutti i nomi, che erano i cavalieri della cugina e di Lotte, ci accolsero sulla soglia e si impadronirono delle loro dame. Io accompagnai di sopra la mia. Intrecciammo un minuetto. Invitavo una dama dopo l'altra e ormai solo le più caparbie non si decidevano a tendere la mano al loro cavaliere per farla finita con quel ballo. Lotte e il suo compagno iniziarono una danza inglese e puoi immaginare la mia gioia quando capitò anche lei nella nostra fila e prese a eseguire con noi una figura. Bisogna vederla danzare, capisci? È così partecipe, con tutto il cuore, con tutta l'anima, il corpo intero trasformato in un'unica armonia, così spensierata, così spontanea, come se non avesse altro in mente, come se non sentisse altro, e certo in quel momento tutto il resto scompare ai suoi occhi. La pregai di concedermi la seconda contraddanza. Lei mi promise la terza e con la più amabile schiettezza del mondo mi assicurò che ballava proprio volentieri alla tedesca. Da noi, continuò, è costume che le coppie restino unite per l'alemanna, ma il mio cavaliere balla male il valzer e mi sarà grato se gli risparmierò la fatica. Neppure la sua dama è capace, ne ama ballarlo, e nella danza inglese ho visto che lei invece è molto bravo. Se quindi vuole danzare con me nell'alemanna, vada a chiedere il permesso al mio cavaliere e io andrò dalla sua dama. Accettai e stabilimmo che nel frattempo il suo compagno avrebbe intrattenuto la mia compagna. Si cominciò e per un po' ci divertimmo a intrecciare le braccia nei modi più svariati. Con quale grazia, con quale levità si muoveva Lotte. E quando passammo al valzer vero e proprio e prendemmo a vorticare gli uni intorno agli altri come sfere celesti, all'inizio ci fu una certa confusione perché pochissimi erano capaci. Noi fummo tanto saggi da lasciare che si sfogassero e appena i più maldestri ebbero sgombrato il campo ci gettammo nella danza e resistemmo valorosamente finché rimanemmo con un'altra coppia soltanto, con Audran e la sua dama. Mai avevo sentito di muovermi con tanta facilità. Non ero più una creatura umana. Tenere fra le braccia la più amabile delle fanciulle e turbinare con lei come una tempesta, così che tutto all'intorno cessava di esistere e, Willem, per dirla tutta, allora giurai a me stesso di non consentire mai a una ragazza di cui fossi innamorato e sulla quale avessi qualche diritto di ballare il valzer con altri che con me. Anche a costo della vita. Tu mi capisci? Facemmo alcuni giri della sala camminando per riprendere fiato, poi lei sedette e le arance che io avevo messo da parte, le uniche ancora rimaste, ebbero un eccellente effetto. Tuttavia, a ogni spicchio che lei concedeva in nome della cortesia a una vicina invadente, una fitta mi attraversava il cuore. Nella terza danza inglese eravamo la seconda coppia. Mentre percorrevamo la fila, io, sa il cielo, con quanto piacere, pendevo dai suoi occhi, il cui sguardo manifestava con assoluta franchezza il godimento più puro e più autentico. Ci imbattemmo in una signora che avevo già notato per l'espressione amabile sul volto non più giovane. Questa guarda Lotte sorridendo, solleva un dito in segno di minaccia e nell'allontanarsi, volteggiando, pronuncia due volte il nome Albert in un tono pieno di sottintesi. Chi è? Albert, se non sono indiscreto, domandai a Lotte. Stava per rispondere, ma dovemmo separarci per la figura del grande Otto. E quando ci incrociammo per un attimo, passando l'uno davanti all'altra, mi parve di scorgere sulla sua fronte un'ombra di pensosità. Perché dovrei nasconderglielo? Disse mentre mi porgeva la mano per la promenade. Albert è un bravo giovane con cui sono quasi fidanzata. Questo per me non rappresentava nulla di nuovo, la ragazza per strada me lo aveva detto, eppure mi giungeva del tutto nuovo, perché non vi avevo mai pensato in riferimento a lei, che in così poco tempo mi era divenuta tanto cara. Insomma, mi turbai. Persi il dominio di me stesso e finii in mezzo alla coppia sbagliata, cosicché misi tutto sottosopra e furono necessari tutta la presenza di spirito di lotte e un gran spingere e tirare per ripristinare velocemente l'ordine. La danza non era ancora terminata quando i fulmini che già da tempo avevamo visto brillare all'orizzonte e che io avevo sempre tentato di spacciare per lampi di calore si fecero molto più intensi e il tuono soverchiò la musica. Tre signorine abbandonarono di corsa la fila, seguite dai loro cavalieri. Lo scompiglio divenne generale e la musica cessò. Quando una sventura o qualcosa di spaventoso ci sorprende durante un divertimento, è naturale che produca su di noi un'impressione più forte di quanto non avvenga negli altri casi, in parte per il contrasto avvertibile in modo così netto, in parte e ancor più perché i nostri sensi, già dischiusi ed eccitati, accolgono tanto più rapidamente una nuova impressione. A queste cause devo attribuire le smorfie bizzarre in cui vidi prorompere molte signorine. La più assennata sedette in un angolo dando le spalle alla finestra e si tappò le orecchie. Un'altra le si inginocchiò davanti e le nascose la testa in grembo. Una terza si insinuò fra le prime due e abbracciò la sua sorellina versando un fiume di lacrime. Alcune volevano tornare a casa, altre, che sapevano ancor meno cosa facessero, non erano abbastanza in sé per tenere a freno le audacie dei nostri giovani satiri, i quali apparivano molto indaffarati a carpire dalle labbra delle belle sgomente tutte le timorose preghiere destinate al cielo. Alcuni signori erano scesi a fumarsi in pace la pipa e il resto della compagnia non rifiutò quando la padrona di casa ebbe la saggia idea di condurci in una stanza munita di tende ed imposte. Vi eravamo appena giunti e subito Lotte si fece premura di sistemare in cerchio le sedie e di proporre un gioco, dopo che tutti si furono seduti esaudendo la sua preghiera. Vidi molti protendere il becco e stropicciarsi le mani nella speranza di un premio succulento. «Giochiamo la conta», disse lei. «Ora fate attenzione. Io girerò fra voi da destra a sinistra e a vostra volta conterete in questo senso, dicendo ciascuno il numero che gli spetta. E deve essere come un fuoco di fila e chi sbaglia o si ferma riceverà uno schiaffo e così fino a 1000». Era divertente a vedersi. Lotte girava in tondo con il braccio teso. Uno, cominciò il primo. Due, continuò il vicino. Tre, quello dopo. E così via. Poi lei prese a camminare più in fretta, sempre più in fretta. Allora uno sbagliò. Paf, uno schiaffo. E quello dopo sbagliò anche lui, distratto dal gran ridere. E di nuovo paf, e sempre più in fretta. Io stesso ricevetti due ceffoni e con segreto compiacimento credetti di notare che erano più energici di quelli somministrati agli altri. Il riso e l'eccitazione generale misero fine al gioco prima ancora che si arrivasse a 1000. I più intimi si appartarono insieme, la tempesta era cessata e io seguii Lotte nella sala. Lungo il cammino lei disse: grazie agli schiaffi hanno dimenticato il temporale e tutto il resto. Non riuscii a rispondere nulla. Io ero fra le più spaventate, continuò, ma impegnandomi con ogni energia per far coraggio alle altre sono diventata coraggiosa io stessa. Ci avvicinammo a una finestra, i tuoni si allontanavano e la splendida pioggia cadeva sussurrando sulla campagna e un profumo ristoratore saliva fino a noi con tutta la pienezza di una brezza tiepida. Lei stava in piedi appoggiandosi ai gomiti. Il suo sguardo percorreva il paesaggio. Guardò verso il cielo e poi verso di me. Le vidi gli occhi pieni di lacrime. Posò la mano sulla mia e disse: «Klopstock». Mi tornò subito alla memoria la splendida ode cui ella pensava e sprofondai nel fiume di sensazioni che aveva riversato su di me con quella parola. Non seppi più resistere, mi chinai sulla sua mano e la baciai, piangendo di gioia. Poi la guardai di nuovo negli occhi. Nobile spirito, se tu avessi veduto in quello sguardo la tua apoteosi e se io potessi non udire mai più da altre labbra il tuo nome così spesso profanato. Giugno. Non so più dove sono rimasto con la mia narrazione, so soltanto che erano le 2 di notte e che se invece di scriverti avessi potuto chiacchierare con te liberamente, ti avrei forse tenuto in piedi fino al mattino. Cosa sia accaduto durante il viaggio, mentre tornavamo dal ballo, non te l'ho ancora raccontato e neppure oggi ho il tempo di farlo. Era un'alba magnifica, intorno a noi la foresta gocciolante e i campi rinfrescati, le nostre compagne sonnecchiavano, lei mi domandò se non volessi essere anch'io della partita, per quanto la riguardava non dovevo avere alcuno scrupolo. Fino a che vedrò aperti questi occhi, risposi guardandola fisso, fino ad allora non c'è pericolo. E resistemmo entrambi finché giungemmo davanti al portone di casa sua, dove la domestica le aprì senza fare rumore e rispose alle sue domande, assicurandole che il padre e i fratellini stavano bene e dormivano ancora tutti. La lasciai dunque, con la preghiera di poterla rivedere il giorno stesso. Lei me lo concesse e io ci sono andato. E da allora sole, luna e stelle possono seguitare tranquillamente il loro tran tran. Io non so se sia giorno o se sia notte e il mondo intero si dissolve intorno a me. 21 giugno. Vivo giorni così felici come Dio ne tiene in serbo per i suoi santi. E qualunque cosa mi accada, non potrò dire di non aver goduto le gioie, le più pure gioie della vita. Tu conosci il mio Valheim. Ormai vi trascorro tutto il tempo. Là sono ad appena mezz'ora di distanza da Lotte. Là ho viva la percezione di me stesso e di tutta la fortuna che può essere concessa all'uomo. Se avessi immaginato quando scelsi Valheim come meta delle mie passeggiate che esso si trovasse così vicino al cielo. Quanto spesso nei miei lunghi vagabondaggi avevo visto ora dal monte, ora dalla pianura, di là dal fiume, quel casino di caccia in cui ora sono racchiusi tutti i miei desideri. Caro Willem, ho fatto le più svariate riflessioni sulla smania umana di espandersi, di scoprire cose nuove, di girovagare, e poi di nuovo sull'intimo impulso di arrendersi di buon grado ai propri limiti, di procedere nel solco dell'abitudine senza guardare né a destra né a sinistra. È straordinario che venissi proprio qui e dalla collina guardassi la bella vallata e tutto intorno a me mi attraesse. Laggiù il boschetto, a potersi dissolvere nella sua ombra, lassù la cima del monte, poter contemplare di là la vasta campagna, il concatenarsi delle colline e delle valli raccolte, se potessi smarrirmi in esse. Vi accorrevo e tornavo indietro e non avevo trovato nulla di quanto sperassi. La lontananza è come il futuro, una grande totalità avvolta nella penombra, sta davanti alla nostra anima. In essa le impressioni si confondono come lo sguardo e desideriamo con quanto ardore di abbandonarci con tutto il nostro essere, di lasciarci colmare da tutto il piacere di un unico grande splendido sentimento. E ahimè, quando accorriamo per raggiungerla, quando il là diventa qui, nulla è cambiato e restiamo nella nostra miseria, nella nostra limitatezza, e l'anima anela ancora al refrigerio che le è sfuggito. Così, alla fine, la nostalgia risospinge in patria anche il più irrequieto dei vagabondi, e questi trova nella sua capanna, sul petto della sposa, nella cerchia dei figli e nel lavoro per mantenerli, quella gioia che aveva cercato invano nel vasto mondo. Se la mattina esco all'alba per raggiungere Valheim e là, nel giardino dell'osteria, colgo da me i piselli dolci, mi siedo a sgranarli e intanto leggo il mio Omero. Se nella piccola cucina mi scelgo una pentola, metto al fuoco i piselli, li copro e mi siedo lì vicino per dar loro ogni tanto una mescolata, allora riesco a raffigurarmi in modo vivido i proci intenti a scannare buoi e maiali e a farli a pezzi ed arrostirli. Nulla mi infonde un sentimento così sereno e autentico come quei tratti della vita patriarcale che, ringraziando Dio, posso intessere senza artificio nella trama della mia esistenza. Quanto mi rallegra scoprirmi un cuore capace di provare il semplice e innocente piacere dell'uomo che porta sulla sua mensa un cavolo coltivato da lui stesso e ora torna a godersi concentrati in un unico istante non solo l'ortaggio, ma tutti i giorni lieti, la bella mattina in cui lo piantò, le sere deliziose in cui lo innaffiava e osservava soddisfatto i progressi della sua crescita. 29 giugno. L'altro ieri il medico dalla città venne qui a casa dell'amministratore e mi trovò seduto per terra tra i fratellini di Lotte, mentre alcuni mi si arrampicavano addosso, altri mi punzecchiavano e io facevo loro il solletico, provocando grandi urla. Al dottore, una marionetta dogmatica che quando parla si spiegazza i polsini ricavandone increspature senza fine, tutto ciò parve degradante per un uomo assennato. Lo capii osservando il suo naso. Ma io non mi turbai minimamente, lo lasciai alle sue ragionevoli occupazioni e ricostruì per i bambini il castello di carte che avevano distrutto. A causa di questo episodio, egli andò lamentandosi per tutta la città che i figli dell'amministratore erano già abbastanza maleducati per conto loro e che adesso quel Werther finiva di guastarli. «Sì, caro Wilhelm, i fanciulli sono quanto vi è sulla terra di più vicino al mio cuore. Quando sto a guardarli e scorgo in quelle piccole creature i germi di tutte le virtù, di tutte le facoltà che un giorno saranno loro necessarie, quando riconosco nell'ostinazione la futura costanza e fermezza di carattere, nella spavalderia il buon umore e quella levità che consente di sfuggire alle insidie del mondo, e tutto ciò in una forma così integra, così piena, allora torno sempre a ripetermi le auree parole del maestro degli uomini: se non diventate come uno di loro, e questi fanciulli, carissimo, che sono nostri eguali, che dovremmo anzi considerare i nostri modelli, noi li trattiamo come sudditi. Non è loro consentito di avere alcuna volontà. Perché? Noi non l'abbiamo, forse? E su cosa si fonda il nostro privilegio? Sul fatto che siamo più vecchi e più assennati? Buon Dio, dal tuo cielo tu vedi bambini vecchi e bambini giovani e nient'altro. E di quali tu sia più contento? Tuo figlio l'ha proclamato già da tempo. Ma essi credono in lui e non lo ascoltano. Anche questa è una vecchia storia. E plasmano i figli a propria immagine e... Addio, Wilhelm, non voglio fare altri sproloqui su questo argomento.